State ascoltando Easy Rider. The Last Brigade, ossia l'ultima brigata. Questi erano i Down by Law dal loro secondo album, quello datato 1990, se non vado errato, quello rosso di copertina, insomma Down by Law di Dave Smalley, uno dei primi grandi autori melodici in ambiti punk, visto che appunto i Down by Law rientrano in questa categoria primordiale, e soprattutto uno dei primi grandi straight edge dichiarati, proprio con la X sulla mano e con un tatuaggio sulla spalla con scritto qualcosa tipo True Till Death. Allora, grandi Down by Law ritrovati per rimanere in America, ma adesso il viaggio di Easy Rider ci fa tornare in Italia. Allora, ripeto, io ringrazio l'amico Edo che mi ha tenuto compagnia fino adesso, e lo ringrazio soprattutto per il regalo volto a colmare le mie lacune in ambiti rock. Adesso ci ha abbandonati, quindi vi ha salutato. Io ringrazio tutti gli amici che stanno continuando a scrivere, salutando anche Edo, però saluto anche Mauri che è felice di ascoltare i Down by Law, l'autista di Firenze ovviamente, l'ultima rimescolata positiva dell'hard rock, come ha detto Edo, è secondo me la definizione più giusta per descrivere appunto l'esordio dei Guns. Per il resto la domanda è sempre la stessa: ma come si fa a chiudere una radio del genere? Questo è l'amico Kattivik, che io ringrazio insomma di esserci sempre. Allora, prima di leggere anche la posta, vi ripeto, mail di riferimento d'ora in poi sarà mox@rockfamily.it al posto di radiorockfm.com. Il prossimo pezzo ci fa viaggiare in Italia. Torniamo nel 1971, visto che abbiamo ascoltato prima gli Iron Butterfly dalla città di San Diego, quelli di Nagada da Vida, tanto per intenderci, in un altro pezzo che si chiamava Easy Rider. Un altro amico mi scrive che ieri sera su Rete 4, vabbè, non dovrei dirlo ma lo dico, hanno dato Easy Rider per festeggiare me, grazie. Però appunto è una cosa che ho detto proprio in apertura puntata e quindi ti sei perso questo passaggio. Il brano invece che voglio farvi ascoltare adesso è una parte strumentale di una canzone che fu pubblicata anche come 45 giri. Il titolo è Nessuno, Nessuno. Il gruppo è la Formula 3, che erano sotto le ali protettrici di Mogol e Lucio Battisti, quindi erano proprio il gruppo che faceva anche da musicisti per Lucio Battisti spesso, quindi Radius, si stavo per dire la Vezzi e Temper, Radius, Cicco e Lorenzi. Ecco, ricordiamo, la Formula 3 era un super trio che anche in Italia si dedicava alle sonorità prima beat ma poi sicuramente progressive e hard rock. Il brano, ripeto, la parte strumentale di Nessuno Nessuno è tratto dal loro secondo omonimo album del 1971, per l'appunto prodotto da Mogol e Lucio Battisti. L'etichetta infatti era la numero uno. E allora ascoltiamoci questo frammento strumentale della Formula 3. Oh, tutta la classe degli anni 70, ma anche tutta la classe italiana, è il caso di dire. In questi tre talentuosi Baldi giovani, Alberto Radius, che ricordo con piacere essere stato ospite per ben due ore in una puntata di Easy Rider, e poi Tony Cicco alla batteria e il mitico anche Gabriele Lorenzi alle tastiere, che si occupava anche praticamente delle parti di basso, esattamente come i Doors quando non avevano il basso, insomma ci pensava l'organista, il tastierista. Quindi questa è una bella curiosità relativa alle formazioni, insomma, limitate a tre strumentisti. I Doors avevano anche un cantante, ovviamente Jim Morrison, ma insomma le parti di basso erano appannaggio del tastierista. Allora, grande Formula 3, io sono felice di potervi trasmettere questa musica italiana che altrimenti in pochi vi trasmetterebbero, e aprirei proprio una parentesi italiana a questo punto, senza però trascurare ancora quelli che sono i vostri messaggi. Allora, l'amico BC67 mi scrive un messaggio quasi personale, ma che vi inoltro volentieri. Riferito alla serata di venerdì della Rock Famous Band, dice: grande serata, durante il delirio dei Nirvana, quindi quando abbiamo suonato il brano Territorial Pissing, ho visto i tuoi genitori un po' scioccati, così ho parlato un po' di bici con il babbo, essendo appassionato di bici. Quindi grazie per il tuo opportuno intervento. Saluti a Lorre, che manda i ringraziamenti a me e a Edo. Grazie a te, caro Lorre. Danilo dice: ma quanto hai pestato venerdì sera, davvero grande serata e che bello avervi conosciuto, anche per noi è un piacere. E ho pestato né più né meno che il solito, come si tratta la batteria quando si suona del rock and roll in maniera un po' becera, come fa la Rock FM All Stars Band. Poi altri amici da salutare. Siete tanti anche stasera, ovviamente mi state subissando di messaggi. Partiamo da Maggie o Maggi da Viareggio, scusa la pronuncia, perdonami. Dice: è stato bello risentirti anche a mezzogiorno. Sì, perché oggi ho avuto un frammentino di onda con Claudia. E poi mi chiede se ero anch'io a vedere i Moonchild nel dicembre del 2006 a Milano. No, in realtà me li son persi. Mike Patton io l'ho visto in un contesto jazz in realtà allucinante, con un batterista jazz e il bassista di Mr. Bungle all'interno di una mattinata dedicata, appunto, una rassegna jazz al Teatro Manzoni qui a Milano, ed è stato veramente fulminante. Va bene, allora vi ho parlato di Italia da trio a trio, quindi l'altro trio che voglio considerare ve li ho già fatti sentire qualche tempo fa. È un trio assolutamente minore, un trio che nasce negli anni 80, ma che proprio l'anno scorso ha pubblicato, anzi nel 2006, un altro album che si intitola Terra Mare. È un trio colto, è un trio fantastico, si chiamano Arpia, arrivano da Roma, e da questo album Terra Mare c'è l'imbarazzo della scelta, perché è un disco di quelli veramente belli, quelli di difficile assimilazione, cioè ascoltati più volte ti coinvolgono, e questa è un po' la caratteristica di questa band, che si muove veramente a cavallo tra il rock progressivo e il rock duro, cantato rigorosamente in italiano con tantissimi riferimenti alla letteratura, alla politica. Insomma, sono veramente dei personaggi colti e ad Easy Rider ci stanno veramente dentro. Allora vi faccio sentire un brano che si intitola Umbria, e non a caso, perché tra l'altro è il nome di una terra, di una regione che in molti in Italia amiamo. Allora, dall'album Terra Mare, loro sono gli Arpia e questa è Umbria. a questo punto direi che è il caso, visto che la band degli Arpia che abbiamo appena ascoltato, che abbiamo ritrovato dall'album Terra Mare con la canzone Umbria, insomma, sono un po' misconosciuti ai più, mi sembra quantomeno opportuno per coloro i quali fossero rimasti colpiti come me all'epoca, li ascoltai proprio per radio grazie a Marco Garavelli negli anni 80 con i loro primi demo che mi sorpresero piacevolmente, e mi fa piacere ritrovarli ancora in attività per quanto dilatata. E allora vi voglio inoltrare i loro contatti, quindi sicuramente un sito internet che è www.arpia.info. Se volete addirittura vi do la mail arpia@inwind.it per contattarli direttamente, e poi sicuramente hanno anche un MySpace che corrisponderà sempre al loro nome. Allora, io adesso lascerei un attimo l'Italia per tornarci poi dopo, perché ho delle notizie. Innanzitutto voglio ricordare l'appuntamento di domani sera, che sarà in compagnia di un maestro luminare di cultura rock, perché Easy Rider è fatta dal sottoscritto sicuramente insieme alla collaborazione di alcuni amici che poi ospiteremo in una puntata speciale proprio alla fine di questa settimana. Ma insomma, ho dei maestri e uno di questi si chiama Beppe Riva, e domani avrò il privilegio di ospitarlo proprio qui ai microfoni di Rock FM. Quindi tutti gli interessati alla scena rock dagli anni 70 e 80, con delle fortissime venature di hard rock, di heavy metal e anche di psichedelia, insomma, non si perdano l'appuntamento di domani ad Easy Rider con Beppe Riva. Altri ospiti, uno lo introdurrò con un brano musicale dopo, si tratta di un celebre cantante italiano, e poi ne avremo altri. Voglio salutare un amico, l'amico che scrive dalla Spagna, Werner, che mi manda la recensione del concerto di Roger Waters appena visto a Granada, molto molto simpatica, un po' di vicissitudini hanno caratterizzato il concerto, comunque grazie mille Werner, sei sempre il benvenuto. Fausto da Pisa scrive sempre alla mail mox@rockfamily.it dicendo la sua sui Guns N' Roses, cosa che fa anche l'amico Fefo, che poi mi chiede anche se ho mai passato Doro Pesce come artista. Effettivamente no, quindi una lacuna che hai colto. Poi Marco, sempre dalla città di Pisa, insomma, domanda retorica, dice: come faremo senza un programma come Easy Rider? Meglio non pensarci e goderci questi ultimi 20 giorni. Ciao anche a te, caro Marco. Un altro amico anonimo dice: ecco perché l'Ariel era improponibile sabato sera. Non so cosa tu ti riferisca, l'Ariel d'altronde è sempre improponibile. Salto in Germania, 1974, un brano che dovrebbe andare in onda a mezzanotte, perché si intitola esattamente così, Mezzanotte, Mitternacht. L'album era Autobahn, il primo album di successo di massa per i Kraftwerk, e io vi faccio ascoltare il retro del 45 giri Cometen Melody 2, e questa è Mitternacht, quindi mezzanotte, e la luce a quest'ora direi che è perfettamente consona all'evento. È sicuramente un brano che evoca la mezzanotte. Il suono è veramente perfetto per questo orario, e è musica descrittiva, quello dei Kraftwerk, da sempre. Allora approfitto per mettere la base, proprio, che si chiama Autobahn, il brano, la title track di quell'album, che conteneva anche questa traccia che vi ho fatto ascoltare rigorosamente da vinile, da un 45 giri tedesco che ho la fortuna di possedere, oltre ovviamente all'album. Quindi Autobahn per i Kraftwerk, ricordiamo, maestri precursori nella ricerca elettronica, i primi ad utilizzare percussioni elettroniche inventate e ideate da loro, per cui a loro si deve praticamente l'invenzione e l'ideazione della batteria elettronica. Allora mi arriva la conferma, ho fatto un po' la figura dell'ignorante e ci tengo a rettificare. Maggie dice giustamente che il concerto che ho visto di Mike Patton insieme a Trevor Dunn e Joy Baron era diretto ovviamente da John Zorn, che era al banco di regia, quindi al mixer, era proprio quello dei Moonchild. Quindi non mi ricordavo il nome di questa formazione estemporanea, e quindi bene, sono contento di condividere con voi ascoltatori anche questi concerti più particolari. Effettivamente sono uscito da quello show molto molto divertito e con un'opinione di Mike Patton ancora migliore di quella che già avessi, ovviamente, perché si è dimostrato una delle voci più versatili in assoluto nel mondo. Allora l'altro amico Frinz mi dice: primi ritmo tribale ti sembrano avvicinarsi molto per certi versi alle sonorità degli Arpia? Direi di no, direi che sei assolutamente fuori strada, non hanno nulla a che vedere, neanche una nota. Il ritmo tribale facevano tutt'altro, anzi guarda, se poi ti riferisci ai primi ritmo tribale, magari li ascolteremo, non domani perché c'è Beppe Riva, ma in settimana li ascoltiamo, porto i loro dischi e ti renderai conto della grande differenza. L'unica cosa in comune è che sono italiani che cantano in italiano, ma le fonti di ispirazione sono radicalmente diverse. Il prossimo pezzo invece ci porta a Los Angeles con un album che si intitola Los Angeles e casualmente uno dei 100 dischi ideali per capire il punk. Siamo nel 1980, loro si chiamavano semplicemente X, quindi la lettera X, capitanati da Exin Cervenka. Io ve li faccio ritrovare con una celebre canzone estratta da questa pietra miliare del punk losangelino, Johnny Hit and Run Pauline. Questi sono gli X da Los Angeles. erano gli ex da Los Angeles con questo disco così, così importante, così fondamentale per capire il punk, ovviamente Los Angeles degli ex, 1980, importante ribadire l'annata, perché poi loro faranno parte anche del cast di quell'ottimo film documentario The Decline of Western Civilization, quindi il declino della società occidentale, della civilizzazione occidentale, in cui uno dei protagonisti è Derby Crash dei Germs, che morirà di lì a poco per purtroppo abuso di eroina, quando il nichilismo nel punk era ancora un dato di fatto e purtroppo mieteva le sue vittime per questa teoria del no future che era stata un po', si era insediata già dal 77 in poi. E poi nacque per l'appunto il grande movimento Straight Edge, che si pose un po' in antitesi con l'uso appunto delle sostanze stupefacenti di qualunque natura, proprio per anteporsi insomma a questa come forma di ribellione a qualunque forma di dominio, come per l'appunto le sostanze stupefacenti. Ma torniamo a bomba in Italia. Vi ho anticipato che avrò ospite lunedì prossimo, già praticamente confermato, Bernardo Lanzetti. Lo ricorderemo come militante prima di una prog band dei primi anni 70 chiamata Acqua Fragile, immediatamente dopo nella PFM, quindi per un paio di album. Lui si rifaceva molto a Chapman dei Family e ovviamente come lui anche Peter Gabriel. Insomma, Bernardo Lanzetti torna nel 2008 con un nuovo album solista proprio a nome Bernardo Lanzetti, che è straordinario, a 15 tracce, si chiama Eclectic Lens o Eclectic Lens, poi ce lo faremo dire da lui come si pronuncia in maniera corretta, ed è effettivamente eclettico, c'è dentro qualunque genere musicale e ci sono anche vari linguaggi, ma non solo sonori, proprio varie lingue, perché lui è in grado di cantare in varie lingue, quindi pochi brani in italiano, molti in inglese, molti anche in altre lingue come francese, forse addirittura spagnolo, ma poi ne parleremo con lui. Io ho scelto un breve frammento, tanto per darvi un assaggio di questo album, ripeto, Eclectic Lens, nei negozi in questi giorni, appena uscito a nome Bernardo Lanzetti. Il pezzo si intitola La Battaglia, The Battle, dura solo 2 minuti, però è assolutamente godibile. Questo è Bernardo Lanzetti. Vi ho promesso un frammento interessante da questo nuovo album di Bernardo Lanzetti e sono sicuro comunque che vi sia arrivato qualcosa. Eclectic Lance, ripeto, l'album di Bernardo Lanzetti, The Battle, la canzone che abbiamo ascoltato, ripeto, in tutti i punti vendita oppure dal sito btf.it è reperibile, ma poi insomma approfondiremo insieme a lui direttamente un po' la lavorazione di questo disco e sicuramente vi farò, coglierò occasione per farvi ascoltare altre interessanti tracce, così come molto interessante ritengo che sia la prossima traccia in programmazione oggi ad Easy Rider. Prendo in considerazione, non so, forse per la prima volta, però non sono sicurissimo, sarà almeno la seconda, perché non è da me trascurare un aspetto della musica, della scena italiana degli anni Ottanta così importante. Siamo nella città di Torino, molti di voi conoscono nomi come Lalli piuttosto che Stefano Giaccone, ecco, loro provengono da una formazione dei primi anni Ottanta che si chiamava Franti come il bambino, insomma quello un po' più vivace del libro Cuore. Questo è il nome metaforico, il nome di riferimento che il gruppo anarchico si è dato. I Franti hanno pubblicato degli album di culto, di assoluto culto, proprio durante la prima e appena l'inizio della seconda metà degli anni Ottanta. Io oggi vi faccio ascoltare un brano cantato proprio dalla voce di Lalli, quindi voce femminile. Il brano si intitola Le loro voci ed è del 1984. Esiste una bella raccolta, un'opera omnia di questo gruppo che si chiama Non classificato, non è facile da trovare, probabilmente è già fuori catalogo perché è uscita diversi anni fa per la Blue Bus di Aosta. Però insomma, se fate una ricerca in internet, secondo me anche i Franti saltano fuori in virtù della loro importanza. Quindi il brano che ho scelto, vi ho già detto il titolo, è Le loro voci. Allora ci ascoltiamo ad Easy Rider, i Franti. Poco sole, pochi giochi, i bambini guardano su, una scia graffia il cielo, occhi scuri cercano sé, inventa madre tu che sei dolce, storie impaurite di felicità, presto sonno ci prenderà, suoni lievi la tua voce. Mattina piove piano, me li vedo in marciapiedi, trasparenti il buio e i neon, è solo un altro giorno, ti svegli e sei dentro un sogno, mi dici dormi, guardi l'ora, una piega cancella il tuo viso, suoni lievi la tua voce.